E stare i martelli lì come assinnati, assinnati di frange di televisioni, marinisti cani che sono latrati, miniere e miniera si latra calzoni. Canzoni salvemi di pochi milionati, l'interno di massani, sanini di sottane, pure le tre cavalle di zitta di dita, qui vita sta vita, mi pare neofita. Allora su bravi di allori bruciati, scolari di cellule danni fatati, e tanghi con tanga di polvo di minga, o scruto di volti che peggio ne salta, e salta la pioggia di stima in catene, e tiene la neve di tetti di lontani, e tanghi che sparano colpi di nitra, che la lana raccolta è già pronta condita.